un uomo e una donna, tra una donna e un uomo, tra una donna e una donna, tra un uomo e un uomo, tra un tulipano e una tulipana, tra un garofano e una puttana, tra una formica e un elefante, l'amore odia l'indifferente. Quando l'amore regna, la spada attraversa i corpi e non taglia, anzi disinfetta le nostre debolezze, tutti i nostri difetti, tutte le nostre colpe, tutti i nostri misfatti. Tra uno sciacallo e un serpente può essere frequente vederli abbracciati col veleno in mezzo al dente. Eppure sempre insieme sono, attraversano il fiume, si amano da morire al punto di non farsi mai male. Tra un albero e una stella, tra una stella e il corallo, tra il corallo e il mare, tra il mare e un aquilone, tra una porta e un portone, sotto la luce di un lampione, tra una fessura e la sua chiave, c'è un posto per tutti sotto la luce del sole. Tra un tulipano e una tulipana, tra un garofano e una puttana, tra una formica e un elefante, l'amore odia l'indifferente. Tra un albero e una stella, tra una stella e il corallo, tra il corallo e il mare, tra il mare e un aquilone, tra una porta e un portone, sotto la luce di un lampione, tra una fessura e la sua chiave, c'è un posto per tutti sotto la luce del sole.